Buongiorno Camilleri. Buongiorno Fiorello. Com'è il mare oggi? Calmo, abbastanza calmo. Allora stasera il telegiornale annuncerà nuovi sbarchi di clandestini. Clandestini? Diciamo persone che fuggono dalla miseria, dalle guerre, dalla persecuzione. Ma ci sono anche dei bambini tra di loro? Certo che ci sono. A volte con le loro famiglie, a volte prendono il mare da soli. E poi quando arrivano qui in Italia, che fine fanno? Non è chiaro. Ufficialmente non se ne sa nulla. Allora questi bambini sono invisibili? Sì, Fiorello, sono bambini invisibili. Amnesty International si preoccupa dei diritti umani di questi bambini invisibili. Diamo una mano ad Amnesty. Campagna Invisibili. www.amnesty.it